Il pentimento è un sentimento di rimorso, di dolore e rammarico per aver fatto qualcosa che è male in sé meno, o che si considera tale meno, o che comunque non si vorrebbe aver fatto. Stando così le cose tutti, prima o poi abbiamo avuto occasione di pentirci. Anche se il termine pentimento evoca soprattutto una reazione nel campo morale, nella vita pratica non è così, perché ci si può pentire di aver fatto un acquisto sbagliato o di aver fatto una scelta affrettata, il che non è rapportabile alla morale. Se mi pento di aver comprato un abito perché alla fine non è consono alle mie necessità, è inopportuno avere dei sensi di colpa, perché sono errori che fanno parte dei nostri limiti umani. Più serio e più grave è invece il pentimento nel campo morale, perché sarebbe ideale e propizio non pentirsi mai di errori comportamentali. Infatti, una cosa è pentirsi di aver comprato un abito non adatto, altra cosa è che l'abito l'abbia rubato. Il dispiacere o il rimorso nasce in entrambe le situazioni, ma è certamente preferibile essere dispiaciuti per aver fatto una spesa inopportuna che per aver compiuto un furto. Perciò il pentimento per aver fatto cosa che in sé è male, o che si considera tale, e che comunque si vorrebbe non aver fatto, non dovrebbe nel modo più assoluto accadere, ma, poiché tutti sbagliamo in molte cose e in molte maniere, l'esperienza del pentimento è necessaria, se non addirittura auspicabile. E necessaria perché, dato che si sbaglia, si deve riconoscere i propri errori. È auspicabile perché, se non ci si pente delle proprie mancanze, non si migliorerà il rapporto con il prossimo. Quindi, è proprio fuori luogo essere schivi nei confronti di un discorso in merito al pentimento, ritenendolo adatto solo a persone religiose, perché senza pentimento non vi è crescita in nessuna direzione. Se un bambino già dai primi rapporti con gli altri non impara a cambiare le abitudini sbagliate, è costretto a diventare un vero mostro insopportabile nelle relazioni. Infatti, i ragazzi che pullulano le prigioni o case di correzione sono proprio coloro che hanno acquisito abitudini asociali delle quali non si sono mai pentiti. L'errore fondamentale della loro vita non è stato tanto quello di commettere azioni deplorevoli, ma di non averle riconosciute o di non volerle riconoscere come moralmente scorrette. La riammissione nella società di questi giovani e degli adulti irriducibili nel male sta solo nella speranza che da parte loro esista un sincero pentimento per gli errori commessi, assieme a un desiderio ardente di cambiare vita. Il pentimento è quella presa di coscienza che costruisce e rende sana una società. La parola di Dio si riferisce spesso al pentimento, anche se questa parola non si trova tante volte. Il pentimento è contenuto nell'ordine di Dio di ravvedersi, termine questo implicante una nuova presa di coscienza del proprio stato di peccatori perduti, di provare rimorso per quello che si è fatto di sbagliato, di accettare il perdono di Dio offerto in Cristo Gesù e vivere una vita nuova secondo le regole del Dio Trino rivelato nelle Scritture. La lettura della parola di Dio e la preghiera saranno i binari sui quali scorrerà la vita di chi ha realizzato il vero pentimento. L'odio e l'egoismo lasceranno il posto all'amore e alla generosità. La scelta degli amici sarà fatta con cura e si sarà cauti nell'evitare le occasioni di peccato e di male. Si cercherà il piacere nel compiere il bene, anziché ricercare affannosamente il bene nel piacere. Il vero pentimento sarà evidenziato dalle opere che produce e che saranno in armonia con la verità creduta, mentre si guarderà al passato non più nell'amara nostalgia di una giovinezza che non ritorna, e al futuro con paura e ansia, ma si aspetterà con pazienza il giorno in cui Gesù ritornerà per regnare con giustizia. In definitiva, con un vero pentimento si riceve la mente di Cristo e si ha il senso delle cose di Dio. Tutto questo è meraviglioso, ma vi è dietro all'angolo la tremenda e spaventosa possibilità che il pentimento non sia sincero e che non porti alla croce di Cristo. Questi due pericoli non sono facilmente coglibili in una società che ha fatto del pentimento una virtù a sé stante, tanto che chi è pentito è ritenuto sempre comunque un virtuoso. Che il pentimento non porti automaticamente ai giusti risultati è provato dall'esempio di Giuda, uno dei 12 discepoli di Gesù. Così viene descritto nel Vangelo di Matteo il suo pentimento. Poi, venuta la mattina, tutti i capi dei sacerdoti e gli anziani del popolo tennero consiglio contro Gesù per farlo morire. e, legatolo, lo portarono via e lo consegnarono a Pilato, il governatore. Allora Giuda, che l'aveva tradito, vedendo che Gesù era stato condannato, si pentì e riportò i 30 sicli d'argento ai capi dei sacerdoti e agli anziani, dicendo: «Ho peccato, consegnandovi sangue innocente». Ma essi dissero: «Che ci importa? Pensaci tu». Ed egli, buttati i sicli nel tempio, si allontanò e andò a impiccarsi. 27.15. Giuda si era reso conto di ciò che aveva fatto. Provava un sentimento di rimorso, di dolore e rammarico per aver fatto cosa che in sé è male. Stava desiderando con tutta la sua anima di non aver fatto ciò che ha fatto, ma piuttosto di scegliere la via dell'umiliazione e del perdono, si impiccò. L'episodio di Giuda deve essere un monito per ognuno di noi, perché sono troppi coloro che si pentono di aver fatto qualcosa che non andava fatto, ma in seguito non procedono sulla strada giusta. Quante persone ascoltano l'Evangelo e si sentono con punti nel cuore? Atti 2.37. Ma chi? Perché è soddisfatto di questo sentimento? Chi perché non vuole umiliarsi? Chi perché non desidera avere problemi di fede con altri? Di fatto i più non invocano Cristo quale loro Salvatore e loro Signore. Questo è un grave dramma che solo lo Spirito Santo può far vedere nella sua totale pericolosità. Ma il pericolo più azzardato e fatale in merito al pentimento è che questo sia il frutto di un sentimento melenso, melodrammatico. Prendiamo in esame alcuni aspetti del pentimento che non produce una fede che salva. 1. Vi è il pentimento formale. Esso è molto frequente in chi è religioso e lo si nota molto bene quando, nei luoghi di culto cattolici, i fedeli del continuo chiedono perdono dei loro peccati ed esprimono il loro pentimento, ma nulla è accompagnato da un vero desiderio di voler correggere i propri errori. Per anni e anni ripetono le stesse cose, pur proseguendo a commettere le medesime mancanze. 2. Vi è il pentimento interessato. Questo tipo di pentimento è il risultato della paura delle conseguenze del peccato, paura di rappresaglia o di dover affrontare situazioni insostenibili. Ho presente quella ragazza che piangeva dirottatamente davanti a me, profondamente pentita perché inaspettatamente era rimasta incinta, ma nella sua prostrazione la maggiore preoccupazione era come farlo sapere ai genitori e soprattutto alla comunità nella quale viveva. Ne ho conosciute alcune che hanno preferito abortire piuttosto che portare l'onta della vergogna, così che il loro pentimento si è rivelato per quello che era. Pur di non passare sotto il setaccio dei giudizi altrui, hanno preferito compiere un'azione ancora più malvagia. Il vero pentito è disposto a portare le conseguenze dei propri errori senza lamentarsi. Quando Gesù era sulla croce e aveva due ladroni ai suoi lati, e uno di questi, pentito, accettò la sorte che stava subendo. Chiese perdono e lo ottenne, proprio perché non scusava le sue colpe, non incolpava altri, ma riconobbe di meritare il giudizio di condanna. Quando un pentito ritiene di avere dei diritti, mostra di non essere sincero nel suo rammarico. Se chi chiede perdono aggiunge dei però o dei ma, si tratta di un pentimento interessato, non gradito a Dio. 3. Vi è il pentimento fuggitivo. Torrenti di dolori potrebbero anche invadere il cuore di chi è pentito, senza però che egli sia profondamente mosso dal vero desiderio di voler abbandonare l'errore. Vi sono persone che si pentono del continuo in modo generale, caratteristica questa di chi spesso nasconde dei peccati che non vuole abbandonare. Ho presente una donna che ad ogni appello di santità è sempre presente, ma dopo 20 anni è sempre quella. 4. Vi è il pentimento egoista. Questo pentimento è tipico di chi si pente di piccoli peccati per tenere strette abitudini ben peggiori. Ho presente un uomo che è stato disposto ad abbandonare tante malefatte, ma continua ancora oggi a picchiare sua moglie. 5. Vi è il pentimento immaturo. Vi sono persone che esprimono un pentimento ma lasciano coscientemente la porta aperta alla tentazione. Ho presente quella ragazza drogata che aveva fatto una reale esperienza con Cristo. ma non lasciando le compagnie di prima, è ritornata alle proprie abitudini. 6. Vi è il pentimento relativo. Alcuni si pentono per certi comportamenti per loro ripugnanti, ma non hanno una vera e propria avversione verso tutte le forme di disubbidienza a Dio. Questi sono i santi del brutto carattere, i quali modificano solo ciò che a loro piace. Vi è il pentimento tardivo. La parola di Dio riporta l'episodio di Esaù, il fratello di Giacobbe, che rifiutò le benedizioni invisibili di Dio per i beni terreni, ma, come sta scritto, quando egli volle ereditare la benedizione fu respinto, infatti quantunque la richiedesse con lacrime non trovò cambiata la decisione. Ebrei 2:17. In effetti Esaù aveva scelto le cose terrene, e quando si rese conto del suo errore chiese con lacrime a suo padre di benedirlo, ma Isacco non poté dargli ciò che ormai deliberatamente aveva rigettato. Così è nella vita. Ci si può pentire di certi errori, ma alcuni di essi sono talmente irreversibili da non trovare possibilità di rimedio, come una gravidanza non lecita, le parole pronunciate improprie e offensive, un omicidio, una scelta fatale come bere del veleno, e soprattutto il rifiuto determinato nell'accettare il perdono di Dio. Chi non accetta il perdono di Dio, anche il pentimento più prostrante e sincero per qualsiasi cosa, non ha nessun effetto, perché si rimane ancora dei pentiti ma impenitenti. L'accettazione del perdono di Dio produce il vero pentimento che porta ad odiare tutto ciò che una volta si amava di sbagliato e ad amare tutto ciò che si odiava di bene. Le cose vecchie sono passate, tutto è diventato nuovo. Senza questo risultato, occorre dubitare del proprio pentimento perché il nostro cuore è ingannevole più di ogni altra cosa. Ma, grazie a Dio, chi ama la santità e la verità più dell'errore di se stesso, conosce quel vero pentimento che lo porta sempre più vicino a Cristo. Novembre 2006. Ellero.